posso restare ancora un minuto accanto a te. Anche se il mio amore, sai, è solo per te. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano, tanto lontano da te. Non posso restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amore, ma non posso restare. Muoio se non ci sei, ma devo prendere il treno che mi porterà lontano e vuoi sapere perché. Se stasera non sarò tornato a casa, ci sarà qualcuno che non dormirà. E soffio unico, la mia casa è vuota senza te. Io non posso restare, non posso restare ancora un minuto accanto a te. Mi dispiace amore, ma non posso restare.